e quante cose mi ha insegnato. E quante cose che ti ho raccontato, quando ero solo in camera, quando scrivevo, quando frignavo, forse pensavi che ridicolo è l'umano. Ed eri così svelta nell'avvicinarti, per venirmi a dire non ti preoccupare, non ci pensare, che sono solo fesserie umane. Apri le braccia, accarezzami la pancia, che tutto passa, purtroppo tutto passa. E che rabbia mi fa dimenticare. Dimenticarmi dei tuoi peli addosso, lungo i miei vent'anni. Adesso non li trovo in mezzo ai miei panni. Che male fa cantarti ancora oggi. Potessi riaggiustarti. Siamo così diversi che ci assomigliamo. Sentirsi più vicini a un gatto che a un essere umano. Adesso non mi fa più strano. Adesso che non ti ho più a portata di mano. Ed è consolatorio pensare che ci sia da qualche parte il modo di non vederti andar via e di tornare a casa, trovarti lì in attesa solo di un complimento, di una banale intesa. Alleggerivi il mondo e mi addolcivi il suolo, perché ad appesantirmi son bravissimo da solo. Siamo così diversi che ci assomigliamo. Sentirsi più vicini a un gatto che a un essere umano. Adesso non mi fa più strano. Adesso che non ti ho più a portata di mano. Ed ora che non sei più a casa e lì dove eri stesa rimane solo il silenzio e una coperta all'aria infusa. Alleggerivi il mondo e mi addolcivi il suolo, perché ad appesantirmi son bravissimo da solo. Ti saluto così, con un pezzo che di te non è all'altezza. È solo un ultimo tentativo di farti una carezza.